Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Tre moschettieri. Sono venuto a Parigi per diventare uno di voi. D'Artagnan, vuoi diventare moschettiere? Questa è la tua occasione. Tutti per uno? Uno per tutti! Che c'entrano i moschettieri con il nostro benessere? Beh, c'entrano. Non dovete pensare proprio ai moschettieri in carne e ossa, ma al loro motto. Tutti per uno, uno per tutti. Questo è il primo indizio che vi posso dare. Per gli altri ci affidiamo al dottor Carlo Gargiulo, che è in linea con noi. Buongiorno dottor Gargiulo, bentornato. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno ai nostri ascoltatori, grazie dell'invito come sempre. Dottor Gargiulo, qualche indizio? Beh, tre moschettieri, quindi lavorare tutti insieme per un obiettivo comune. Ce n'è anche un quarto, ma poi lo vedremo alla fine. E perché lavorare tutti insieme? Perché se l'azione di uno è sinergica, cioè aiuta l'azione dell'altro, parliamo del nostro organismo, ovviamente parliamo di medicina, stiamo sicuramente meglio. Immaginiamoci un po' qualcosa che succede dopo la masticazione, vogliamo partire da lì, Nicoletta? Proviamo da lì, un altro indizio ce lo suggerisce il dottor Luca Voledo, che invece è qui con me in studio. Buongiorno. Buongiorno, è un piacere essere di nuovo con voi. Un altro indizio, tre moschettieri, sì, ma più che di cappa e spada, io direi croce e delizia, perché questi tre moschettieri ci aiutano a godere di uno dei massimi piaceri della vita, che però se ne abusiamo si fanno anche sentire, ecco, quindi la delizia e la croce. Dottor Gargiulo, tocca a lei. Beh, allora abbiamo detto mastichiamo, abbiamo detto croce e delizia, la delizia della masticazione, il piacere dei sapori, la croce del fatto che quando mangiamo un po' troppo il primo dei nostri moschettieri si lamenta perché magari, che so, comincia a spingere un po' sulla parete, comincia a dirci che forse abbiamo mangiato troppo, e insomma dai che ci siamo. Su. Ormai ci siamo, presentiamoli tutti allora, dottor Gargiulo. Bene, allora stiamo parlando del nostro stomaco, ovviamente, che è il primo elemento dell'apparato digestivo, quello che riesce a ricevere il cibo masticato e passato attraverso l'esofago, quello era il quarto, passato attraverso l'esofago e comincia a rimescolarlo nel suo interno per mischiarlo con i succhi gastrici che aiutano la digestione, cioè che favoriscono quel processo fondamentale che avviene nel secondo moschettiere, che è l'intestino, dal duodeno fino all'ileo, questa prima parte dell'intestino riceve il cibo che è già cominciato a essere elaborato meccanicamente e chimicamente e assorbe le sostanze importanti. Queste sostanze, una volta che vengono assorbite, dove finiscono? In mano al terzo moschettiere, che è il fegato, perché tutta la circolazione sanguigna, il reflusso, cioè quella che esce dall'intestino, va verso il fegato, che è un laboratorio chimico di altissima precisione. Tutto viene scomposto, tutto viene immagazzinato per essere utilizzato sotto forma di proteine, di zuccheri, di grassi, di tutto quello che serve al nostro corpo per vivere e per compiere quei metabolismi che sono poi la vita con la V maiuscola. Ma questa è la delizia, la croce è che quando sbagliamo l'alimentazione, non abbiamo rispetto dei momenti della digestione, diamo qualche schiaffo al fegato, magari bevendo un bicchiere di troppo, ecco che tutti e tre possono insorgere con dei sintomi che sono poi anche abbastanza simili fra di loro, perché non sempre riusciamo a distinguere quella che con un termine un po' difficile ma ormai conosciuto è la dispepsia, cioè la difficoltà di digestione. Ed è quello che proveremo a fare oggi, dottor Gargiulo, è stato troppo bravo, io l'adoro. Grazie dottor Gargiulo, ritorni presto, buona giornata. Un abbraccio e un saluto al collega, arrivederci. Saluti. Dottora Voledo, allora ci occupiamo proprio della pancia, noi solitamente facciamo un calderone, come ha anticipato il dottor Gargiulo. Vero. Non ho digerito, mi sento la pancia gonfia, ho un dolorino, chissà un po' di acidità, colpa. Non ho digerito bene. Invece noi oggi cercheremo proprio, insieme anche ai nostri ascoltatori, di fare un pochino di chiarezza, ma soprattutto di dare dei consigli, dei rimedi, dei suggerimenti. Esatto. Di giocare un pochino d'anticipo. Certo, molto volentieri. Potremmo anche, per esempio, invitare i nostri ascoltatori, se sei d'accordo ovviamente, sì, a dire in quale momento della giornata la loro pancia, restiamo sul vago perché appunto non è, come diceva il professor Gargiulo, facilissimo capirlo, in quali momenti della loro giornata la pancia si fa più sentire e in che modo, con quali segnali che ci invitano appunto a una maggiore attenzione. 800 24 00 24 se volete raccogliere l'invito del dottor Avoledo, a cui allora faccio anch'io una proposta. Proviamo a pensare a una giornata prototipo della nostra pancia. Che bello, volentieri. Così poi cammin facendo, diciamo, è veramente in quel punto lì. È proprio, capita anche a me, e quindi voi siate pronti, se vi riconoscete, a chiamarci subito 800 24 00 24. Come sempre potete seguirci su Facebook e su Twitter, ma io non mi stancherò mai di chiedervi di scaricarci, mi raccomando, questo ci fa molto piacere. Dottora Voledo, iniziamo quindi dal mattino, al risveglio, che a loro in bocca, a loro in bocca, non per tutti però, perché appunto tanti si svegliano invece con la bocca impastata, con poca fame, inappetenza, è segnale spesso di un fegato che non funziona come dovrebbe, o che magari abbiamo appunto abbiamo abusato delle sue capacità mangiando troppo la sera prima. Il fegato è ancora lì che sta lavorando. Questo è uno dei segnali principali dell'inappetenza al mattino. Al mattino però anche qua, croce delizia, la pancia è piatta come un campo di calcio e moltissime, soprattutto signore, sono contente di avere una pancia piattissima, cosa che magari nel corso della giornata comincia a lievitare. Certo, a muoversi un po'. Se vogliamo proseguire in questa giornata ideale, cosa succede? Di solito a metà mattina la nostra pancia si fa sentire. E qua siamo alle 11:16, il classico buco allo stomaco. Classico buco allo stomaco. E qualche anche borbottio. Per non dire una parola, borborigmo, che sono questi rumori che i gas che nello stomaco ci fanno sentire che c'è qualche cosa da fare. Spesso il buco di metà mattina, che sentono in tanti, è legato a una cattiva colazione, per non dire una colazione assente, quelli che al mattino prendono solo un caffè e corrono via. È chiaro che poi a metà mattina lo stomaco si fa sentire. E il cappuccio e brioche, colazione prediletta da tanti connazionali, non è poi molto meglio, perché come spesso dite ad Essere Benessere, i picchi di zuccheri che vengono riversati nel sangue con grande velocità da cappuccio e brioche creano sì una sensazione di pienezza e anche di euforia immediata, a cui però segue una sensazione altrettanto rapida di caduta dei livelli di zuccheri, con un circolo vizioso che ci porta magari a mangiare un ulteriore cappuccino e brioche. Quindi gli ascoltatori, se avete mangiato cappuccino e brioche la colazione e adesso avvertite un calo, e quindi vi riconoscete in questa situazione, tanto che andate a cercare magari o vi prendete un altro caffè per tirarvi su, per ammazzare un po' la fame, o iniziate a mangiucchiare caramelle, grissini. Per oggi ve la concediamo e va così. Da domani miglioriamo la colazione. 800 24 00 24, dichiaratevi, perché magari il dottor Avoledo vi imposta, magari vi dà qualche suggerimento, qualche dritta, perché nel corso della giornata si può sempre cambiare direzione. Assolutamente. Giusto? E noi arriviamo al pranzo, al dopo pranzo. Attenzione, il momento è delicato, molto critico. Il dopo pranzo e il suo corrispettivo serale, il dopo cena, possono diventare vere e proprie sfide. La domanda è, dottor Avoledo, chi avrà la meglio? Noi o i nostri moschettieri, che saranno nostri alleati o nostri nemici in questo caso. Dopo pranzo soprattutto è un momento critico, tipicamente l'abbiocco postprandiale si fa sentire. Cerchiamo innanzitutto di fare delle scelte intelligenti a tavola. Quindi è vero che a pranzo bisogna mangiare, meglio mangiare di più a pranzo che a cena, come diciamo spesso, però evitiamo i pranzi da matrimonio, dall'aperitivo alla mazza caffè. Mastichiamo a lungo e con calma, sembra sempre un consiglio banale, ma risolve centinaia di pance gonfie. Se abbiamo delle difficoltà digestive, dei trucchi molto semplici che possiamo mettere in atto davvero oggi a pranzo, anticipiamo, come fanno i francesi, la porzione di verdure crude, quindi il contorno, soprattutto se crudo, prima ancora del primo, invece che accompagnarlo al secondo. Quindi oggi iniziamo con le verdure crude. Questo migliora moltissimo il processo digestivo. A Filippo Aureggi la verdura non piace. Non ad piace esempio, la verdura? Che cosa gli facciamo mangiare? Se non mangio, ne piace. Inizia con la frutta. Puoi anche iniziare con la frutta. Però non si può rinunciare ai benefici a 360 gradi, non solo digestivi, di verdura. Però intanto per avere un cambiamento graduale, per venire incontro. La frutta va benissimo, certo. E anche mangiare piccoli pezzetti di frutta e di verdura. Cominciamo con un rapanello, un morso di carota. Che ce la fa anche Filippo Aureggi, che in regia la parte tecnica. Oggi lo filmo e lo metto sulla nostra pagina. Quindi questi atteggiamenti sono spesso legati anche a cattive abitudini portate nel tempo. Quando si hanno 5 anni si possono, come dire, si può stare dietro a 30, 40, forse non mi piace. quindi, deve essere corretto. Quindi iniziamo con qualche cosa di crudo, fresco e colorato. Crudo e colorato, come dice il mio amico Attilio Speciani. Masticare a lungo e con calma. Semplifichiamo il processo digestivo, appunto, spostando certe portate come la verdura a inizio pasto. E per chi ha davvero uno stomaco e un intestino molto sensibile, la verdura può essere invece lasciata ad altri momenti della giornata, come spuntino. La frutta, scusate. Mentre si beve o non si beve? Questa è una domanda al 349-238-6666. Bere durante i pasti o lontano dai pasti? Tutte e due, nel senso che bisogna fare un distinguo importante. Se beviamo per mandare giù il boccone, cosa che fanno in tanti, è un eccesso di acqua che non serve. Mastichiamo meglio e il boccone va giù. Un po' di acqua serve per il processo digestivo. L'eccesso non ci piace perché va a diluire anche gli enzimi digestivi, i succhi gastrici. Quindi si beve un po' quello che il corpo richiede. Meglio bere poi durante la giornata. Volevo chiederle se la digestione è difficile, soprattutto dopo pranzo, poi ce ne occuperemo di questo momento delicato della giornata e non solo, perché stiamo seguendo la nostra pancia lungo, almeno le 12 ore. Certo. Di notte di solito sta tranquilla, no, dottora Voledo? Notte di solito sta tranquilla perché può essere utile. Può essere utile sorseggiare invece dell'acqua, comunque una tisana, un tè per avere un po' un cambio di sapore, ma soprattutto sfruttare i benefici di erbe. Ci sono, le piace questa domanda, piace tantissimo, lo sapevo, proprio servita su un piatto apposta. D'argento. Oltre al fatto che il caldo aiuta, perché migliora anche in parte, aiuta il benessere dello stomaco, ma se ci mettiamo dentro nell'acqua calda anche delle erbe mirate, specifiche, qua c'è davvero l'imbarazzo della scelta, a seconda di quale dei nostri organi funziona meglio o funziona peggio. Si possono fare anche dei mix che funzionano sulla funzione digestiva. Quindi voi non avete che da chiedere, 800 24 00 24. Io non posso rispondere, ma il dottor Avoledo naturalmente vi darà delle indicazioni su cosa mangiare, soprattutto quale erbe utilizzare, non solo, e non parliamo di solo erbe. Non solo erbe, ci sono anche integratori, vitaminici, minerali, altri nutraceutici. Dicevamo, il dopo pranzo è un momento delicato, perché anche se in qualche modo ci sentiamo magari non tanto pesanti, a diventare pesanti sono le nostre palpebre. La pennichella classica ha un suo cerimoniale, bisogna stare le regole perché se no non vale. Il letto è sconsigliabile e il sonno la devasta, ci vuole la sedia a tondo o una poltrona bassa. A questo punto metti a cuccia il cane e accosta le persiane, ma non le chiude tutte che è uno sbaglio, lassaci uno spiraglio perché il brusio del mondo arrivi. Allora, intanto queste sono le regole perfette per una pennichella d'oro e quindi le abbiamo ripassate con Nino Manfredi, ma per molti di noi la pennichella rimane un sogno, e allora lì iniziano gli sbadigli uno dietro l'altro, una sorta di tortura anche per i vicini, perché basta che inizi uno e via, parte la catena. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Professore, buongiorno. Nicoletta, ben trovata, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Posso dire una cosa sulla pennichella, breve, prima certo, dello sbadiglio? Certo, che mi piace. Sì. Ci sono degli studi che dicono quanto deve durare per non dare danno. Insomma, dai 5 agli 8 minuti è calcolato che consenta di avere energie per 3 ore e mezzo. Quindi puntiamoci la sveglia, anche se siamo in sogno, una micro pennichella fa bene. Ma non vorrei andare fuori tema. Lo sbadiglio è stato studiato in lungo e largo. Pensi che nell'antico induismo è considerato una offesa religiosa, mentre Ippocrate diceva che serviva per cambiare l'aria cattiva nei polmoni e portare aria fresca nel cervello. Ma gli etologi, quindi gli studiosi del comportamento degli animali, ci dicono che negli animali il capobranco sbadiglia di più e in maniera più sgangherata. Veramente? E solo per dare un numero anche allo sbadiglio umano, la media dello sbadiglio è 6 secondi, ma in sbadigli particolarmente intensi si giunge a 10, quindi una sesta parte d'un minuto, è veramente una bella durata. Ma quindi a qualcosa serve sbadigliare? E soprattutto questo è un segnale dai molti significati, lei come ci ha raccontato anche negli animali. Io noto che il mio cane ogni tanto sbadiglia e ho letto che non è per sonno, ma è nelle condizioni in cui il cane magari è in una condizione un po' di disagio. Esattamente. Noi possiamo sbadigliare per noia, ma anche forse quando siamo sotto stress. Esattamente così, se potessimo usare il linguaggio dei giornalisti del telegiornale degli anni 60, notizie dall'interno, è esattamente la nostra interocezione. La cosa strana è che è una comunicazione non verbale che serve a sincronizzare il comportamento del gruppo, mi spiego meglio. Siamo in un pranzo, in una cena un po' formale, ci sono delle olive da prendere e con la forchetta si fa fatica. Come vedi, il primo che spazientito lo prende e un tana libera tutti per gli altri. È esattamente questo. Gli studiosi hanno dimostrato che lo sbadiglio attiva tutte le vie dell'empatia e serve a vivere perché amalgama nella conoscenza il gruppo e gli consente di vivere più a lungo. Nessuno penserebbe a un sintomo così insopprimibile come un meccanismo di socializzazione, di confessione, di mettersi a proprio agio. È come darsi un po' del tu, è detta grossa ma in parte è così. E quindi è questa la ragione per cui è contagioso? Dunque, è contagioso ma non in tutti. I bambini neonati sbadigliano, ma diventa contagioso a 5-6 anni. Negli animali, gli animali sbadigliano, ma è contagioso solo per gli scimpanzé e i macachi. Perché? Perché contagi occorre avere un certo tipo di neuroni, chiamati neuroni specchio, che funzionino bene. Badate bene, lo sbadiglio è contagioso addirittura a sentirlo, sì, e solo a pensarlo. Ci sarà qualcuno che in questo momento sarà vittima di questo. Cosa succede? Perché è contagioso? Sostanzialmente questi neuroni specchio indossano, che abbiamo noi, indossano l'azione, in questo caso lo sbadiglio dell'altro, provano a mettersi nei panni viscerali dell'altro per capire cosa sta provando, il tutto per essere con lui in empatia. Il 50% degli sbadigli contagia gli astanti. Questo è un rischio anche per i relatori nelle varie sale. Professore, prima di salutarci, gli sbadigli mattutini sono molto diversi, spesso diversi da quelli serali. Quelli mattutini sono accompagnati da stiracchiamenti, quelli serali direi da svenimenti, perché crolliamo alla sera dalla stanchezza. Professore, c'è una spiegazione in tutto questo? C'è una spiegazione un po' complessa di tipo chimico. Alla mattina, quando noi facciamo i primi sbadigli, c'è una liberazione particolare di dopamina che va nell'ipotalamo, che è il centro della nostra vita vegetativa, ma anche di molte nostre emozioni, e lui manda questa raccomandata in serie all'ippocampo e al nostro ponte, al nostro midollo, e quindi, come quando si tira una barca in secca, un OIS, vengono chiamati a raccolte i nuclei motori di tutti i muscoli della testa, ma anche del collo e delle spalle. Ed ecco quindi la elevazione, cui consegue anche, tanto che ci siamo, uno stiracchiamento. Questo differenzia l'orario degli sbadigli. Professor Barbanti, grazie per essere stato con noi. Allora non ci resta che regalarci un bello sbadiglio. Adesso quando chiudo il telefono, però. Grazie professore, buona giornata. Paolo ci chiama dalla provincia di Ferrara, Marco da Monza. Paolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Lei ha sbadigliato? Sentendo allora, parlare di sbadigli. Mi sono trattenuto, onestamente. Però sì, direi che la tendenza era quella, sì. Vero? Che basta, il dottor Avoledo, l'ho guardato fisso, non ha avuto trattenuto il coraggio, si è trattenuto, che però non bisognerebbe trattenerli. Comunque, Paolo, mi racconti allora, lei. Intanto, a proposito degli sbadigli, una cosa che ho notato e facevo considerazioni su questo, io alla mattina non sbadiglio, raramente lo faccio, quindi volevo sapere questa cosa qua, ma la mia telefonata, la mia domanda era in funzione piuttosto del dopo pranzo, e la canzoncina sulla pennichella era perfetta. Vero, perché, che mi piace da morire. Sì. È perfetta, perché diciamo che io provando vari tipi di alimentazione, ho provato veramente di tutto, da anche non mangiare o mangiare leggero, mangiare con glutine, senza glutine, riso e insalata, verdure, insomma ho provato un po' tutte le combinazioni, ma mentre le stesse combinazioni alla sera non mi danno nessun problema, compreso l'alcol, a pranzo in ogni modo proprio, mi ammazzano. Cioè, proprio la bioccone, Paolo. Beh, ogni caso dovrebbe essere valutato singolarmente, bisognerebbe vedere com'è la giornata del nostro amico nel dettaglio. È anche vero che in parte il fenomeno della sonnolenza è fisiologico, che sia a pranzo che sia a cena, perché c'è un richiamo di sangue agli organi digestivi, con sottrazione da altre parti, cervello incluso, quindi un po' di sonnolenza è fisiologico, ecco perché i consigli, diciamo, alleggeriamo il processo digestivo. Certo. E poi si possono usare ovviamente tantissimi presidi naturali. Ad esempio al nostro amico Paolo da Ferrara, che cosa suggeriamo? Potremmo provare a suggerire per esempio lo zenzero, che è una sostanza, una pianta, una radice, anzi un rizoma, un fusto sotterraneo, che ha numerosi effetti benefici sull'apparato digerente, in particolare sullo stomaco. Aiuta, è un procinetico, cioè facilita la digestione, quindi alleggerendo il processo digestivo, ma è utile anche nelle nausea, anche un antinfiammatorio. Quindi Paolo per oggi potrebbe chiudere il suo pranzo con un po' di zenzero. Esiste nella versione fresca, che è una radiciona, giusto? Sì, è un rizoma, cioè il fusto sotterraneo. Oppure c'è nella versione candita, ce l'ho lasciata. Quella candita la lascerei perdere. L'ho mangiato ieri sera. C'è in tintura madre, in capsule, c'è proprio come presidio, come integratore. Andiamo di zenzero, noi dobbiamo andare ai mercati, per cui chiedo a Marco da Monza. Buongiorno Marco, mi accompagna ai mercati? Buongiorno, andiamo a sentire i mercati e il meteo e poi ritorniamo insieme. Essere e benessere. Avevamo finito di pranzare, che erano le 8 di sera. Mia madre appena ha sentito la sedia che si sfilava da sotto il tavolo fa: ferme tutte, che la cena è pronta. Non l'avesse mai detto. Ci aveva dato una porzione di melanzana a tutti quanti, che le porzioni di mia madre sono delle teglie di 5 kg e mezzo l'una, che la signora Pautasso con una porzione ci fa il pranzo di nozze del figlio Giampaolo. L'unica volta che mia madre era stata clemente con Usoco, perché ha detto: sono i bambini, viene il colesterolo alto, zio Caratozzolo non si rassegnava. Ha tirato fuori l'arma segreta, il peperoncino di Soverato, che è piccante, ma così piccante che la teglia si è allargata, le lasagne si sono moltiplicate. Mia madre mi ha guardato e mi fa: Franco, oh Franco, prendete e mangiatene tutti, che sennò da sto tavolo non si alza nessuno. Marco, eccolo qui con noi. Buongiorno. Buongiorno, siamo pronti. Allora, no, io avevo chiamato perché prima si parlava di colazione. Certo, ma noi parliamo di tutto quello che mangiamo, di tutto quello che digeriamo o non digeriamo, dal mattino alla sera osserviamo la nostra pancia. Cosa ci dice? Come si trasforma? Come si muove? Allora, no, io praticamente... Va bene anche a colazione. Colazione, diciamo che in settimana inspiegabilmente io non riesco a mangiare quasi nulla, cioè, piuttosto anche mezzo litro di latte col caffè lo mando giù, la mia compagna mi mette lì pane, burro, marmellata, ma proprio non riesco. E lei non la mangia mai, lei e tutte le mattine le rifà di nuovo pane, burro e marmellata e lei gliela lascia lì. No, dica però la verità, la terza volta me la tira dietro, però inspiegabilmente, non so, il sabato, che magari mi sveglio un'oretta dopo, però vado comunque a lavorare, mangio volentieri i pancake o le uova che sempre la mia compagna mi fa. Vede, dottora Voledo, che compagna. Compagna invidiabile. Come mai? Quindi è un discorso di la fame è un problema di orari? La fame è anche un problema di orari, spesso, soprattutto quando cambiano certe nostre sensazioni, o dalla settimana al fine settimana, bisogna vedere se non facciamo qualcosa di diverso tra i giorni, diciamo così, feriali, lavorativi, e il fine settimana. Per esempio, non posticipiamo magari l'orario di certi pasti. Bisognerebbe vedere, ad esempio, se il fatto che dorme qualcosa in più, qualche ora in più al sabato mattina, non aiuta il processo digestivo, quindi anche il fegato, che ha più tempo per fare il suo lavoro e quindi si alza con maggior appetito. In questi casi, per esempio, andrebbe interrogato il nostro amico Marco la cena, come è composta la cena consueta, perché se prova a mangiare per 3-4 giorni solo un'insalatina, alla mattina magari si alza e ha voglia di sbranare anche le gambe del tavolo. Quindi provare ad alleggerire molto la cena e vediamo pasto serale. Va. Anche anticiparne l'orario per dare più tempo agli organi digestivi di digerire bene durante la notte e svegliarsi con l'appetito. Abbiamo Maria Teresa da Bergamo e Giorgio da Novara. Maria Teresa, buongiorno. Buongiorno, grazie, complimenti. Io ho una situazione molto problematica e disastrata come pancia a causa di una celiachia diagnosticata dopo 13 anni, sì, nonostante avessi dei sintomi. E niente, mi trovo con un colon irritabile, con un transito alimentare rallentato e una pancia molto gonfia. Sono a ferra dieta e questo problema dell'aria in pancia mi crea dei problemi non indifferenti. Ho provato con i semi di finocchio, vedo che dopo, se riesco a camminare dopo aver mangiato, la situazione un po' migliora. Migliora perché il movimento aiuta, i semi di finocchio sono... Hanno delle proprietà sicuramente antigas, antispasmo, sono una delle erbe migliori. In questi casi bisognerebbe vedere, al di là della celiachia, quindi una situazione patologica di competenza medica, se non ci sono, cosa che spesso capita nei celiaci, esagerazioni su altri cibi che possono alla lunga creare qualche problema. Per esempio penso a cibi eccessivamente lievitati o fermentati, anche tanti prodotti da forno, in questo caso privi di glutine, ma che comunque possono dare problemi di questo tipo. Quindi una attenzione alimentare anche ad altri cibi, senza che sia eccessivamente vessatorio, ovviamente potrebbe aiutare moltissimo. Giorgio da Novara, buongiorno. Giorgio? Buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei. Buongiorno. A che punto è la sua pancia? Cosa dice adesso in questo momento? No, sto bene. Meno male. Volevo parlare di questo. Il mattino mangio verso le 7, parto uno o due barrette con le fibre e un caffè. Sì. E arrivo tranquillamente fino all'una senza problemi. Senza buchi. Senza buchi, sì. Arrivo invece sabato e la domenica, che sono a casa magari con i ragazzi, quindi mangio magari fette biscottate con marmellato, con il crudo, e, insomma, diciamo mangio di più, mangio anche quei biscotti con le fibre, eccetera. Arrivo verso le 11, 11:30 che ho già fame. Dottor Avoledo, allora, la colazione fa la differenza, l'abbiamo detto tante volte, se mangia le barrette tutto a posto, fila liscio fino all'uno, quando cambia un po' la sua colazione e diventa anche un pochino più ricca, e la colazione che si fa in famiglia al sabato con più tranquillità, i buchi si sentono. Una colazione ricca, dipende che cosa c'è dentro però nella colazione, perché appunto se consideriamo che molte colazioni sono fatte con un grande eccesso di carboidrati, quindi di prodotti da forno, per esempio pane, fette biscottate, biscotti, eccetera, sicuramente la colazione è ricca, ma non è l'ideale per quello che riguarda il contenimento della fame nervosa di metà mattina. Aggiungiamo una, mi sembra che ne parlasse il nostro ascoltatore, anche però una buona quantità di proteine. Ci sono delle proteine che si prestano bene per la prima colazione, le uova per esempio, che è difficile arrivare con una colazione fatta bene, magari anche con le uova in ogni forma, uova sode, uova alla coque, delle belle crepe, è difficile arrivare alle 11 avendo il buco nello stomaco. Quindi questi sono dei consigli, siete in tanti a scrivermi, per evitare il buco nello stomaco durante la mattinata. A cui si può comunque ovviare, per esempio introducendo il momento migliore della frutta intera con la buccia e, ove possibile, anche con il torso o i semi, per esempio nella mela, nella pera, ben masticati, che aumentano l'indice di sazietà. Se no uno mangia due nocciole invece, anche che... una mela manciata di frutta in guscia, noci, nocciole, mandorle, pinoli. 800 24 00 24, che cosa vi dice la vostra pancia, qual è il momento critico o quando invece è perfetta, magari al mattino perché è piatta oppure dopo che l'avete allenata in palestra. Continuate a scriverci al 349 238 6666. Causa principale dei dolori di pancia, un parapiglia emotivo vi siede stabilmente nella mia colite come un nodo. Dottor Avoledo, è vero, la nostra pancia somatizza tutto quello che ci succede, è veramente molto emotiva, noi non digeriamo solamente gli alimenti ma digeriamo anche le emozioni, anche le frustrazioni, le preoccupazioni e tutto si concentra lì, sì, intorno all'ombelico. Si scaricano proprio su tipicamente stomaco e intestino tutte le nostre somatizzazioni, nevrosi più o meno forti, le tensioni e lo stress. Allora in questo caso sì, un occhio alla pancia va dato, e ci sono rimedi specifici a cui abbiamo anche accennato, ma ancora più interessante è lavorare sulla sfera nervosa in qualche modo che governa questi aspetti. E quindi ci sono dei rimedi molto interessanti, sia dal punto di vista delle piante, sì, una di cui abbiamo forse già parlato, la melissa, meravigliosa per le somatizzazioni sul digerente, aiuta il transito e calma anche questo rapporto, questo dialogo sistema nervoso-intestino. Sì, quando ci sentiamo il pugno nello stomaco. I crampi. Andiamo di melissa. Melissa. Ma ci sono anche dei rimedi al di là del mondo vegetale. Una triade meravigliosa è quella costituita da magnesio, vitamina B6 e taurina, che sono un minerale, il magnesio, vitamina B6, una vitamina appunto, e la taurina un amminoacido, che sono tre sostanze formidabili per regolare le cosiddette distonie neurovegetative, cioè un tono non perfetto del sistema nervoso, che riguarda anche l'intestino. E quindi noi lavoriamo sugli amici della nostra pancia per regalarle benessere. La pancia è una delle parti del nostro corpo che più ci dà tormento, perché la vediamo se aumenta di volume, la sentiamo perché qualche cosa si muove dietro, ed è la pancia quella per cui, la parte del corpo per cui siamo disposti a fare anche un pochino più di sacrificio, a mangiare un po' meglio, ma anche a fare un po' di attività fisica. Ma l'attività fisica, lo sappiamo, da sola non basta, bisogna anche muoversi bene, mangiare bene per far scendere la pancia. Ma adesso la domanda è: ma a stomaco pieno o a stomaco vuoto? Essere e benessere. Un po' di movimento per sfilare la pancia, lo facciamo un po' tutti, dottora Voledo, anche lei, no? Perché per tenersi in forma, ma c'è una ricerca che dice, bene, muoviamoci, ma lo facciamo a stomaco pieno o a stomaco vuoto? Andiamo a sentire. Per perdere peso, fai attività fisica prima di colazione. Bruci più grassi e dai una ripulita alle arterie, diminuendo il rischio di malattie cardiovascolari. A sostenere l'efficacia dell'allenamento a digiuno per dimagrire è una ricerca della Glasgow University, pubblicata sul British Journal of Nutrition. I ricercatori Nor Farah e Jason Gill hanno studiato gli effetti dello sport fatto prima di colazione sugli uomini. Ma attenzione, il discorso sembra non valere per le donne. I benefici rispetto alla già consigliatissima attività fisica crescono dato che l'esercizio a stomaco vuoto costringe l'organismo a usare le riserve di grasso, facendogli così bruciare di più. E in linea con noi abbiamo il piacere di avere la professoressa Daniela Lucini, associata all'Università di Milano e responsabile della sezione di medicina dell'esercizio Humanitas. Professoressa, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, eccomi. A stomaco pieno o a stomaco vuoto? Ah, bella domanda. Si brucia meno, si brucia sì, di più? Questo studio è interessante, perché sicuramente porta l'attenzione su uno dei problemi importanti, cioè come fare in modo che fare attività fisica ci renda di più in termini di dimagramento. È uno studio preliminare però, quindi va sicuramente verificato da tutta una serie di altre ricerche. Il fatto che vada bene per gli uomini, non vada bene per le donne, è un'altra cosa che non è sempre piacevole, però è molto interessante, quindi va visto. Bisogna fare una precisazione innanzitutto: fare attività fisica a digiuno, da un punto di vista teorico può dare tutti i benefici che ci abbiamo visti, dobbiamo però essere certi di non avere delle problematiche mediche. Sì. Un signore diabetico se certo. lo ricorda, quindi se uno sta bene con questa premessa why not, ok? Quindi se una persona sta bene, se una persona soprattutto non fa un'attività fisica particolarmente intensa o particolarmente lunga, ma la nostra camminata di 30 minuti piuttosto che un po' di cicletta, un po' di jogging, perché non provarci? Bisogna però che la persona stia bene, verifichi certo. col suo medico, e il consiglio che io darei è molto pratico e molto semplice, però prendere qualche liquido, quello sì, ok? Sì. Quindi bere dell'acqua piuttosto che una spremuta di arancia o cose di questo genere, male non potrebbe farci. È vero che l'attività fisica fatta al mattino fa bruciare di più? Il che faccia bruciare di più, indipendentemente dall'attività, da quello che mangiamo, ma proprio cambia un po' i nostri comportamenti nei confronti anche del cibo? Ma diciamo che più che cambiare il comportamento nei confronti del cibo, può cambiare la sensazione di fame che una persona ha. In genere l'attività fisica, cioè c'è un po' luogo comune che fare attività fisica, poi ti viene tanta fame, sì, e hai voglia di mangiarti, che ne so io, la brioche o il cioccolato. In realtà fare attività fisica fa venire magari più voglia di frutta, di verdura, di liquido. Quindi è vero, fare attività fisica può cambiare il rapporto con l'alimentazione. È più facile dimagrire facendo attività fisica, non solo perché bruci di più, ma perché vedi in maniera diversa il cibo, hai voglia di mangiare cose un pochettino diverse. Professoressa, vogliamo dare due indicazioni molto rapide: che cosa si mangia prima di allenarsi? Lei ha detto, mi raccomando, bevete sempre, ma può essere una spremuta, può essere un tè, e poi dopo l'allenamento si torna a mangiare qualche cosa. Abbiamo dato delle indicazioni per il mattino, se vuole dare qualche puntualizzazione. Pensiamo anche a chi si allena magari nella pausa pranzo, al posto, esatto, del pranzo, ecco. Quindi se una persona si allena al posto del pranzo, cosa fantastica da un certo punto di vista, però comunque non completamente a digiuno, perché lì ormai sono passate un po' di ore, quindi una cosa leggera, una spremuta, un po' di frutta, uno yogurt, magari a metà mattina, non subito prima di fare attività, poi il bel allenamento e subito dopo ancora liquidi, frutta, un minimo di carboidrati, poi dipende se una persona vuole dimagrire o non vuole dimagrire, certo. Questo è un altro. Noi qua diciamo persone che si muovono per buttare un pochino giù la pancia e quindi persone vogliono che dimagrire. Si muovono per buttare giù la pancia, allora a metà mattina un pochettino di frutta, una spremuta piuttosto che lo yogurt, l'allenamento, quando hanno finito una bella insalata con un po' di pesce piuttosto che un po' di un pezzo di pollo alla brace, è fantastico. Professoressa, grazie per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata e soprattutto buon moto, perché io so che lei è quasi un atleta. Addirittura, grazie comunque. Grazie a presto, lei. A presto, arrivederci. Dottora Voledo, ci sono ancora tante domande, ad esempio va bene prendere la camomilla al mattino al posto ad esempio dell'acqua tiepida? Benissimo, la camomilla è arcinota per le sue proprietà calmanti, sedative, ma non tanti sanno che invece è una pianta ancora forse più interessante per gli effetti sullo stomaco, perché è un antigas e aiuta anche nei crampi. Allora, vogliamo dare qualche indicazione per i più comuni problemi che abbiamo anche un po' raccolto dalle telefonate, dei messaggi, che sappiamo già tutti noi per esperienza diretta o indiretta della nostra pancia, contro il gonfiore? Allora, contro il gonfiore dicevamo tisana di semi caldi, quindi finocchio senz'altro sì, ne parlava la nostra ascoltatrice, ma anche cumino, coriandolo, anice verde, sono le erbe più antigas che conosciamo. Una bella tisana anche più volte al giorno, lasciando questi semi in infusione qualche minuto, aiuta sicuramente a allontanare i gas. Invece per il discorso della dolenzia, delle fitte, che cosa possiamo prendere? Per le fitte, per la dolenzia, per i crampi, ci sono delle erbe che possono essere utili come antispastici, per esempio la menta piperita, è anche molto gustosa, aiuta anche lei contro i gas, ma è anche contro i crampi intestinali. Se invece ci sono anche delle problematiche di tipo gastrico più alti, quindi di stomaco, bruciori, ricordo la liquirizia, che è un formidabile rimedio naturale che aiuta contro la gastrite e i sintomi. Come la si prende? Si potrebbe anche mangiare e succhiare il famoso bastoncino. Attenzione alla pressione, vero? A chi soffre di pressione alta, se ne mangia tanta però, ma ci sono formulazioni ancora più pratiche che sono le capsule, come tutte le erbe vengono anche in capsule sotto forma di integratori, quindi se le può portare in giro in una scatoletta e si possono assumere durante la giornata. Per eventuali altri dubbi, domande, voi potete come sempre scriverci a essere benessere@radio24.it. Dottora Voledo, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Naturalmente potete leggerlo anche sul nostro Daily Lab. Per oggi è tutto. Filippo Oreggi in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Troverete sulla nostra pagina un approfondimento per affrontare il weekend, un'intervista con uno psicologo del lavoro per evitare il mal di pancia da lunedì. Essere e benessere.